Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Genesi, capitolo 10, versetto 32. Queste sono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro generazioni, nelle loro nazioni, e da questi si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio. Ti sei mai chiesto come mai esistano tante culture, lingue e nazioni nel mondo? Il capitolo 10 di Genesi, conosciuto come la tavola delle nazioni, ci offre una visione affascinante delle origini della diversità umana. Dopo il diluvio, l'umanità iniziò a espandersi e a disperdersi su tutta la terra, formando nazioni con le proprie identità e culture. È come una grande genealogia che mostra come da una sola famiglia, quella di Noè, siano nate tutte le nazioni del mondo. Questo è un richiamo al fatto che la diversità umana fa parte del disegno di Dio. In un mondo che spesso lotta con divisioni e conflitti tra gruppi diversi, e questo può farci perdere di vista la realtà, in ultima analisi tutti proveniamo dalla stessa origine, creati dallo stesso Dio. Cerchiamo di comprendere il passaggio. Genesi 10 può sembrare a prima vista solo un elenco di nomi e nazioni, ma è molto di più. Questo capitolo mostra come a partire dai tre figli di Noè, Sem, Cam e Yafet, sia nata tutta l'umanità post-diluviana. Ciascuno di questi diede origini a popoli e culture diverse che si dispersero sulla terra. Questo non dimostra soltanto la fecondità della famiglia di Noè, ma anche la sovranità di Dio nella storia umana. La frase «da questi si dispersero le nazioni sulla terra» è significativa. Non è solo un fatto geografico, è un atto divino. Dio, nella sua sapienza, permise che l'umanità si disperdesse creando diversità e ricchezza culturale, ma stabilendo anche lo scenario per la redenzione che sarebbe giunta attraverso tutte queste nazioni. Questa dispersione non fu casuale, faceva parte del piano di Dio per riempire la terra e far conoscere la sua gloria in ogni luogo. Questo passaggio punta anche verso la promessa che si rivelerà più avanti nella Scrittura, che in Cristo tutte le nazioni sarebbero state benedette. Fin dal principio, Dio aveva un piano per redimere persone di tutte le nazioni, unendole in un solo popolo attraverso Cristo Gesù. Ecco tre verità bibliche in questo passaggio. Numero 1. Apprezza la diversità come parte del piano di Dio. Rifletti su come la varietà di culture e lingue sia un'espressione della creatività umana. Come puoi celebrare e rispettare questa diversità che vedi intorno a te, riconoscendo che tutti facciamo parte della creazione di Dio? Verità numero 2. Ricorda l'origine comune dell'umanità. Nonostante le nostre differenze, tutti condividiamo un'origine comune della famiglia di Noè. Più indietro, in Adamo ed Eva. In che modo questa consapevolezza può influenzare il modo in cui ti relazioni con persone di culture o di background diversi? Numero 3. Collegati al piano redentore di Dio attraverso Cristo. Dalla dispersione delle nazioni fino alla redenzione di Cristo, Dio ha sempre avuto un piano globale. Gesù è venuto per salvare persone di ogni tribù, lingua e nazione. Come puoi partecipare a questo piano, condividendo il Vangelo con persone di tutte le nazioni? Genesi 10:32 ci mostra come la diversità umana non sia solo parte della storia, ma anche dello scopo divino. Fin dall'inizio Dio aveva in mente un piano globale di redenzione che culminerebbe in Cristo, unendo persone di tutte le nazioni in un solo popolo. Preghiamo. Signore, grazie per la diversità che hai creato in questo mondo. Aiutami a vedere tutti come parte della tua creazione e a celebrare anche le nostre differenze come espressione della tua creatività. Fa che possa essere uno strumento del tuo piano redentore, portando il messaggio di Cristo a tutte le nazioni. Amen.